partire un brano qualsiasi a caso. Allora, io intanto qui accendo, così dopo passiamo in Poi giro. audio DJ. E cominciamo a fare il copia e incolla. Copia. Partiamo da Morti di bestemmie. E non andiamo. E poi lo faccio col cellulare perché faccio prima. Male in piede. No, fa male strano. Allora, no, su Tecnobiz no, perché come non pure il cazzo, oh, spammi. Allora, non è che so che l'asse milanese della radio non sopporta l'asse romano. No, è che sono strani, sono tutti strani, poi più sono nerd e più sono strani. Amo però, a canna, eh. Dunque, sono passato a Via Cavour, e il Monchi lo stanno ancora finito, il sistema però non è aperto. Ma che dov'è? A posto di che cos'è Al quello? posto di Andrew Spab, Canti Spab, Gino Spab. Ah, cioè quindi hanno proprio ricambiato un'altra volta. Ma penso che ti ricordi che era in vendita, però non ti ricordo, ma non Mannaggia, non lo so. Ah, no. Thank you. So are you jumping up on my love? Close your eyes to the heaven above. I'm coming home. I'm coming home. I took a ride in a world I've been spinning for the rest of my life. I feel your heart beating, baby. Do you sometimes it cuts like a knife? So are you tough enough for my love? Just close your eyes to the heaven above. I'm coming home. I'm coming. We'll be right back. Look, I'm on everybody, a tutti quanti, questa notte siamo qui a fumare sigari toscani. Perché? Oh, così, aspetta che tu non hai il microfono acceso, aspetta. Poi vediamo. Oh. Beh, io, Simone, te lo devo dire subito, io stasera punto tutto su Gusella. Sono sicuro che ci fa un puntatone. Eh sì, infatti questa sera Gusella sicuramente che è qui con noi, no? Ciao Gusella, saluta. Vabbè, lo stesso spirito entusiastico di sempre. Lui è sempre lui, eh. Assolutamente, molto molto bene. C'è anche Lucio Plantone. Ah, c'è Gusella, attenzione, c'è Gusella, noi ti stiamo evocando, ma tu non sei qui con noi, allora noi continuiamo a fumare questi sigari toscani. Te hanno fatto già scendere la voce, oh. Che poi in realtà volevo dire cubani. Vabbè, il toscanello, dai, perché bisogna essere un po' nazionalisti, bisogna difendere il prodotto italiano. È vero, poi di sti tempi è sempre meglio, insomma, però il cubano faceva più, no? Fa più? Dillo tu, dai. Non lo so, che fa più Scarface, non lo so, fa più Tony Montana. Fa più... sì, bravo. Vabbè. Sono d'accordo. Vabbè, noi aspettiamo un attimo Gualdi, scusa, ci scuserete, però alle 21 e qualcosa arriviamo, eh? Sì, sì, anche perché poi dobbiamo sbrigare stasera. Sì, oggi puntata rapida, ve lo diciamo subito, perché non abbiamo voglia di fare un cazzo, e peraltro Gualdi fa il compleanno. No, spoiler. Guarda, è la stessa cosa dell'anno scorso, eh. Ah, già, è vero. E quindi era spoiler pure l'anno scorso. Proprio di spoiler, oggi vi spoilerò Avengers Endgame, preparatevi, eh? Ah vabbè, tanto ci ha pensato il trailer di Spider-Man, quindi va bene uguale. Giustamente, come dice Lobby Frontali, il cusbano, è giusto, un nuovo sigaro, potrei mettermi a venderli, c'è ragione. Però guarda che il trailer di Spider-Man c'era tanto così di avviso precedente a dire oh, se su non quelli avete... ufficiali. Ah, e perché tu ti sei andato a prendere tutto? Mi è capitato uno, guarda il trailer, questo è morto, quello vabbè. Vabbè ragazzi, quanto... A parte che già si sapeva comunque, vabbè, non di... dai, facciamo, immaginiamo che qualcuno non l'abbia ancora visto e che lo voglia vedere, magari facciamo finta di niente, anche perché se quando arriva Marco parte di riassunto siamo fottuti, dura tre ore, esatto, quel film. Esatto, perché poi l'ha visto ieri sera, mi sa, Marco. Appunto, quindi è carico, no? Carico, pronto, quindi non lo allora diciamo. Non parleremo di Avengers. Non lo diciamo che quello lì, il coso, no, muore, ciao. Dice Davide che sono un po' saturo, effettivamente a cena esagerato, sì, mi allontano un pochino al microfono, facciamo con maniera, bene, alle maniere un po' antiche, insomma. Saturo, perché è satollo più che saturo, capisci? Sono Saturon. Però, vabbè, bisogna riprendere un po' di mistichezza, perché OGM ha fatto tipo un par di settimane, anche tre. Vabbè, due, senti, a questo punto facciamo la puntata, tanto sono le 20:58. No, vabbè, arriviamo fra 5 minuti, vado a prendere un bicchiere d'acqua, ciao. Ciao. Just begin it. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. E buonasera a tutti, bentornati in OGM, Ottimisti genericamente mortificati, qua su Runtime Radio, in questa sera fantastica e particolare, dopo due settimane di pausa, ferie, feste, cose, e c'è con me Walter Sbano. Buonasera, bentrovati, mi auguro che vi siate riempiti di schifezze per questi 10 giorni di bagordi, abbiate fatto Pasqua, Pasquetta, grigliate, grigliatine, grigliatone, e che ora siete pronti ad avvelenarvi il fegato insieme a noi. Grigliate, però, di melanzane. Di zucchine di mare, scusa. La melanzana cresce nel mare. No, la zucchina sì. Gualdi, hai finito di ciancicare? Quanta ignoranza. No, sto vedendo un conto Marco di... Gualdi! Ciao, sto vedendo un conto di H&M che stava qui appoggiato. Cioè io non pago Pizzi un cazzo. Che si è comprato i perizomi. Io non pago un cazzo. Infatti vedo qua, bijou de d'amour, 35 euro. Portacci, devi... Però vabbè, comunque... L'amante costa, che ne sai? Le cose costano, purtroppo hanno il loro... Ragazzi, siamo tornati nella formazione originale. Esatto. E per la prima volta nella storia non sappiamo che cazzo dire. Cioè, per la prima volta? Non è mai successo. Mai successo. No, in realtà siamo tornati nella formazione originale. Da una parte questa cosa, sai, quando ritrovi il conforto di casa. Dall'altra però un po' ci manca qualcosa. Mercedes, via, Mercedes, via, se ne va, via. Sta guardando la celle del terrore lì. La celle del terrore. Vabbè. Ciao. Auguri a Marco Gualdi. Grazie. Allora, tanti auguri. Grazie a te. Portacci vostri. Bravo, ti abbiamo fatto anche un regalo. Anzi, che due. Due regali. Addirittura, non servono troppo. Poi mi abituo. No, guarda sul cellulare. Guarda, controlla la cazzo, mail. Cazzo, c'ho il cellulare a casa. Vabbè, che strano. Che pippone. Che bello. Non quindi... so se si è sentito il microfono, ma Mercedes diceva che abbiamo fatto dei regali per far mare, quindi se che le paletta. Può per far male. Anche per far male. Adesso voglio andare subito a casa. Un bel tubo innocenti riempito di cemento che abbiamo regalato. Cioè quello innocenti. Tubo innocenti. Innocenti. Innocenti. Qualcuno mi ha abbassato il volume della cuffia, che non so qual è. Sei tu. Non lo so, spippio la smandolupa. Non si fanno queste cose. Perché non riesci a sentire quello che dici. No, mi sento, però sento che cazzo poco sto a dire, tutto il resto, capisci? Cioè, non va assolutamente bene. Comunque questa è una puntata speciale. Esatto. Perché è la puntata dove ritorniamo alle origini. E presto potremo anche ritornare un po' proprio alle origini, cercando di capire di che cosa parlavamo un tempo, perché non ce lo ricordiamo più. Ma sempre di fuffa. Però questa sera in particolare la puntata sarà un po' più veloce, perché... Perché dobbiamo andare ad ubriacarci. Perché dobbiamo festeggiare Gualdi. E giustamente io e Sbano, che c'è una certa, abbiamo detto, però non famo troppo tardi, giustamente, no? Andiamo al pub sotto casa, non facciamo tardi, quindi quagliamo, tra l'altro. Però dobbiamo anche parlare di cucina, perché giustamente diciamo, di che fuffa parliamo, no? Noi in realtà quest'ultimo periodo, volenti o nolenti, abbiamo virato un po' di più verso la politica, perché diciamo che rispetto all'anno scorso la situazione sociale italiana è diventata un pochino più da bestemmia. Un po' più ride, insomma. È molto simpatico il commento di Lobby Lobster Frontali, che dice 45 gatti, no, 45 cioè, no, Gualdi in fila per tre, il resto dove magni? Ecco, a proposito di magnà. Ma che dici, che questo sarà l'anno buono, Gualdi? L'anno dell'appendice, che per dici? Magna, non lo so. L'oroscopo di Branco cosa dice? Però sai che ultimamente l'appendice si è ritirata. Vero, si è un po' rilassata. No, in realtà è successo questa cosa. L'ultima volta che mi faceva male. L'hai cagata, no? Secondo me. L'hai cagata, non te ne sei può accorto. Darsi. Non so, no, perché praticamente stavo praticamente in giro. Era questo inverno, cioè praticamente l'altro ieri. Esatto. Stavo praticamente con questo cappottone che c'ho, piumino bello pesante, con i maglioni contro maglioni sotto. A un certo punto mi si è slacciata la scarpa destra. È un presagio. Cioè, che cazzo, mo male allacciare. Cioè, la gente normale si allaccia la scarpa. Tu invece no, ti sei sciolto anche la sinistra per far pandanna. Cioè. Però ho detto, no, forse è il caso di riallacciarle. Quindi, che cosa fa? Che cosa fa la gente normale? Cioè, prende il piede della scarpa stacciata, lo alza e lo appoggia per diciamo semplificarsi la vita, no? Perché non so così sono andato da le gambe dei 90 questo grammi. Questo quando ha il controllo dello sfintere. Ma anche senza il controllo dello sfintere lo puoi fare, a tuo rischio e pericolo. Esatto, anche a quello degli altri. Esatto, cioè. Però che cosa ho fatto? Mi sono appoggiato sopra un muretto e mi sono piegato giù per avvicinarmi verso la scarpa. Però non l'avessi mai fatto, perché praticamente c'avevo il pantalone stretto, la camicia, il maglione e sto giocone grosso. mi sono schiacciato praticamente l'addome, un dolore allucinante. Poteva essere peggio, poteva essere una palla, lo poteva essere peggio, per... invece no, proprio mi sono sentito come l'appendice, faceva così proprio. Tipo quello di alla, esatto, sì. Ecco alla mora all'ospedale. Invece mi si è passata. Da quel momento allora... potrei averla stappata, oppure sto morendo, ma non lo so. Allora, o hai scoperto di avere delle come dire, delle capacità pranoterapeutiche, nonché autoterapeutiche, taumaturgiche da utilizzare. Quindi cioè, basta strizzarla a morte, cioè muori. Qualcosa. Potresti pensare di diventare un chiropratico. Basta vende case, vendi solide realtà. Pratico, poni le mani. Pratico non tanto, un chiro quasi un pratico. Un chiro quasi pratico, esatto, potrebbe essere un'idea. Un tanto al chiro. Un tanto al chilo, per esempio, guarda. Se Pizzi, tu ti offriresti come cavia per sperimentare le dosi pranoterapeutiche? Piegato da Pizzi, cioè Pizzi, piegate. No, no, ma io, cioè, nel senso, mi offro come cavia, poi sono cazzi tua. Perché... che cavia. Perché una volta c'è uno che mi dice, no, perché se ti faccio quello... Sapete, c'era quel massaggio che praticamente plasmava le ossa, una cosa strana. Plasmava le ossa. E c'è questo qua che praticamente tu stai sdraiato, lui ti mette le mani da sotto, no? Ma sotto dove? Sotto dove? Al culo, ti mette le mani al culo. Mani al culo. Ma ti mette le al culo e le mani? E poi comincia a manipolare praticamente qui nel coccige, no? Roba del genere. Ti manipola il coccige. E tu ti rilassi tantissimo. Se ti rilassi, aspetta, sono contento per te. No, il massaggio prostatico è dietro l'angolo, attenzione, sì. Attenzione. No, no, no, non c'è niente di... tutto molto bello. Tutto molto... scusate, innocente. Sì, intanto Shake Your Booty, per non farsi rimpiangere, dice appendicite al chiodo. Appendicite al chiodo. Però permettetemi a questo punto di salutare i numerosissimi amici in chat che ci hanno raggiunto fin dall'inizio: Davide Gatti, Pier G, abbiamo Lobby Frontali, abbiamo Stefano, abbiamo Lucio Plantone, abbiamo Shake Your Booty, che altro non è che l'alter ego tecnologico di Simone Gusella. E dovrebbe esserci anche Peppe Rizzard in incognito, lo scopriremo tra un po'. E non so che altro possiamo salutare. I soliti quattro stronzi, i 3-4 milioni di stronzi che sono vigliacchi e non si palesano. Certo. I vostri, fatevi sentire. A stronzi. Vabbè, vabbè. Allora, però, allora, voi avete i vostri argomenti. Io questa sera non so veramente di che cosa parlare. Però no, so che ieri sera non abbiamo i nostri a un argomenti. Certo punto. Un 30-40 mila persone si sono messe a cantare accoratamente You Never Walk Alone. Ed è stato un momento bello, era tutto rosso intorno, erano tutti rossi e tutti che si abbracciavano e si volevano bene. You Never Walk Alone, che è una cosa importante, perché è proprio un canto che lì, in quello spazio di Inghilterra, fa ricordare una cosa precisa. Che è nato il Royal Baby. No. Che tra l'altro hanno chiamato Archibald. Come il maggiordomo di corte. Cioè, secondo me, questo c'è Archibald. No, lì poi dopo io ci ho dato una cosa. Perché secondo me sono andati a vedere la lista dei bookmakers. Le bookimere. Qual è quello meno quotato di tutti? Che lo danno tipo Francis, ma tu dove li volessi mettere quei $1,000? Archibald, ok, mettiamo Archibald. Esatto, e qualcuno vabbè. Si è arricchito. Comunque io stavo una cosa poetica, sbano tu. No, vabbè, io però volevo far presente che già tanto per cominciare l'Ajax 1-0 sul Tottenham, così. Così, non c'è poesia del calcio. E quindi niente, c'era questa cosa che Liverpool, insomma, grande squadra, insomma, che noi qui a Roma ricordano sempre, che ricordiamo in italiano significa praticamente pozza de fegato. Però insomma, cioè... la grande squadra, tra l'altro, allenata da Jürgen Klopp, che ricordiamo è l'allenatore che vede anche al buio, esatto, con i suoi denti, che tra l'altro ce n'ha pure uno storto, no? Arriva lui, sorride, e allora se buono fare. Però dai, è un bello metto Jürgen Klopp. Ma sì, tutto sommato. C'ha il physique du roll, diceva qualcuno oggi che in un'altra radio. Pool non è pozza, ma pool è piscina. È una cosa un po' più seria. No, pool è pozza. Dai, pozza. No, pozza è pond. Pond è pozza. Ma sì, forse piscina di fegato. Piscina... che deve essere piscina bello, insomma. Fegato, cioè. Che scena. Che quando è nato... Come la chiamiamo questa città? La potremmo chiamare piscina di fegato. Perché? Perché ovviamente la l'hanno fondata successivamente a una delle milioni di battaglie che hanno fatto l'espianto di fegati. Esatto, e quindi c'erano tutti i fegati per terra, c'era questa veramente una piscina di fegati qui. Allora, e vabbè, comunque il Liverpool ha ribaltato il risultato di 3-0 a Barcellona. Esatto, oltre alla faccia di Messi quando è stato veramente impareggiabile con quello squadro, di no, ma che un'altra volta, perché ricordiamoci che l'anno scorso allora non era Ronaldo la stessa identica... esatto, l'anno scorso è successa la stessa identica cosa, ma con la Roma all'Olimpico, quindi proprio c'aveva proprio la faccia di quello che dice vabbè, allora dice sai, oh, abbiamo un paradale, si è visto, certo. No, invece poi la rimonta storica comunque. Allora, ragazzi, io vi suggerisco, se non siete proprio amanti del calcio, guardate gli highlight, perché il quarto gol è qualcosa di fenomenale. Praticamente gli hanno battuto il calcio d'angolo mentre erano tutti e quattro i difensori del Barcellona distratti, stavano, e non hanno fatto fase difensiva. Stavano a lanciare la scarpa. Più o meno, e ovviamente gli hanno fatto azzozzissima, ma d'altra parte era valido, insomma, quindi molto molto bello, molto divertente. E ti devo dire che tutto sommato, quando vedi una squadra poi bella come l'Ajax, di giovani che in qualche modo nella loro incoscienza, nella loro in parte inconsapevolezza, non si stanno rendendo conto, arriveranno e secondo me faranno sfracello in finale, e ti farò assolutamente per assolutamente loro. Ajax, certo, anche perché insomma Liverpool sì, ma per carità, io non c'ho niente neanche contro il Liverpool, perché veramente è almeno un altro outsider. C'eravamo anche un po' rotti le palle, posso dirlo, de sto duopolio spagnolo e Barcellona e Real Madrid. Real Madrid e Barcellona, stava di questo duopolio Juve e Barcellona. Sì, no, la Juve proprio, guarda, che c'è la Juve, no? È uscita, no? Ma ragazzi, d'altra parte, la Juve c'ha il monopolio. Il monopollo? Monopolio. Beh, sì, monopolio. Ma in realtà in Italia, alla fine ci sono solo loro, cioè continua così. Solito discorso, no? Cogliari De Luna, degli altri presidenti, da De Laurentiis a scendere, presidente. Penso che la Juve vincerà altri 10 scudetti di fila, però insomma, sì, lasciamo perché tutto quanto il campionato italiano sta praticamente puntando sulla Juve per cercare di fargli vincere il campionato. Esatto, ci provano. No, ma in realtà, secondo me, vogliono fare la Superlega, così la Juve se leva dal cazzo. Infatti, e poi lui è che se fa la Superlega, l'attuale Serie A diventa una Serie B, perché in Superlega vanno, mi pare, le prime 3-4 classificate. Serie B, sì, ma la Superlega a livello europeo, mica a livello nazionale. Sì, però se vai a fare la Superlega non ci va solo la prima di ogni nazione, ci vanno le prime 2, 3, 4, quindi alla fine. Ah, no, questo non to. No, secondo me no, sai. Dipende da quante nazioni partecipano. Secondo me vanno a fare un campionato unico a 15 squadre, metti l'ipotesi, e prendono una squadra a nazione. Secondo me vanno a fare una cosa del genere. Chi lo sa? Che sarebbe manco bruttissimo come cosa. Perché insomma, vabbè, comunque. E invece io stavo dicendo un'altra cosa. Ah sì, stavo dicendo, proprio perché adesso in chat c'era questo dibattito su Pond, che è Laghetto e Pozzanghera e cose, no, del genere. E invece noi oggi abbiamo fatto uscire un fantastico video sul canale di Archeologia Informatica, che è praticamente Stone Age. Cioè noi facciamo questa serie che si chiama Antropologia Informatica, dove raccontiamo tutto quello che è la protoinformatica, cioè l'evoluzione del computing. Ma senti, tipo, ma brodo primordiale informatico, quando fa? Ah, poi dopo ci arriviamo, dopo, poi okay. Ci arriviamo. Però la cosa bella è che noi, tutti quanti, del team di lavorazione, io, Sbano, Sant'Agostino... Guardi, se ne sbatte il cazzo, no, diciamo... No, guardi, non c'entra niente. Roba genere, siamo stati 3 settimane a lavorare su sta cosa, scrivendo Stonehenge. Stonehenge, cioè Stonehenge, cioè nel senso invece l'H va... Ah, c'era l'H sbagliata. Però in realtà io l'avevo trovato letto in quel modo, allora l'ho messo in quel modo. Scusa, ma sempre colpa degli altri, no, del PD. Scusa, ma tu non sei a dir pub di Torlupara? No, praticamente oggi a un certo punto uno candidamente, perché io poi dopo sì è bello tutto, però magari, però se scrive Stonehenge con Stonehenge, io dentro di me però in coscienza ho detto no, è qui la fregatura, perché anche io pensavo che si scriveva così e invece si scrive in un altro modo. Però poi alla fine, se tu vai a cercare Stonehenge come lo scrivo io, comunque, ma scusa, a Strigne l'hanno scritto bene, l'hanno scritto male, male, perché, male. Ah, ok, no, perché non avevo capito, vabbè, l'hanno scritto male, e vabbè, oramai usci mai, no, ma guarda che dopo 5 minuti di questa discussione io ho detto sì, sti cazzi, tanto la prossima puntata è sul pallottoliere, è facile, no, vero? Già l'abbiamo fatto il pallottoliere, è vero, che l'abaco. La prossima... Beh, in realtà però l'abaco e il pallottoliere sono diversi, con dai. 2B, giusto? È l'apostrofo abaco. È l'apostrofo pallottoliere, sì. O l'apostrofo bago. Vabbè, insomma, questi sono dilemmi che... ma invece, Gualdi, ti volevo chiedere, no? Visto che stiamo valutando... Ora mi verifico una cosa, perché mi hai fatto venire dubbio. Ipotizziamo se fare la puntata... Cioè, se trasformare OGM inserendo una rubrica di ricette, no? Cioè, sì. La rubrica di chitarra... La rubrica di chitarra, la rubrica di chitarra un'altra volta. La chitarra... No, senti... È il mariachi. No, senti questa cosa. È qualcosa molto... un po' Star Trek. Dramma, questa cosa. Esatto, sì. Un po' anni 60, sta cosa, è vero. Comunque, la prossima puntata è sull'astrolabio. Quindi qui non difficile sbagliamo. Astrolabio, bello. Astro. No, non era Astrolabio, non era quello. Vabbè. Ma io, guarda, potremmo anche farlo, ma esiste soltanto che non l'abbiamo più fatta. C'era Gordon Bleff, che era bellissima, una bellissima cosa, una bellissima rubrica, un bellissimo programma, stagione, tutto insieme. Una puntata sola che fa. Ma secondo te no, Gordon Ramsay, secondo te, che ne so, No, no, dicevo, Alessandro Borghese, piuttosto che... No, ma che ce frega? Pure Pier Silvio, che ha già fatto 50 anni, c'ha figli, però secondo me... Però, vabbè... No, dicevo, la pasta con le zucchine di mare e gamberetti, buone. No? Io ho mangiata l'anno scorso a Bari. A Bari? Sì, proprio a Bari Vecchia. Mm-hmm. E mi hanno detto, guarda, queste sono le zucchine di mare. E poi, sì, come no? Un po' a ricogliere. No, me l'hanno fatte fascare, quelle mano proprio. È brutto, brutte cose. Però sono buonissime, però, buonissime. Ma io non ho capito una cosa. Mi hanno detto, pesca le due così almeno te la mangi. Esatto. La domanda mia è un piatto che si fa in Olanda? No, Ma l'Olanda, è un piatto tipico italiano, pesbano. Italiano. Cioè. Italiano, certo. Italiano. Perché proprio... ricordiamo sempre prima i cuochi italiani. Perché italiani si chiamano Bologna. Bologna, che si scrive come Bologna. Comunque buonissimo, poi la zucchina di mare va preparata in un certo modo. Certo. Perché cioè non è che la proprio rende così. Ma la facciamo alla scapece, no? No, secondo me più ci vuole una lavorazione marinata. Secondo me bisogna marinarla prima. Ma scusa, non esce già quando la peschi, non è già marinata. Se stai de mare. Sì, è la zucchina de mare, è de mare. C'è quella de terra e terrata. E poi c'è quella de lago, è terrinata. Se no c'è la zucchina d'acqua dolce. Che dolce. No, però quella rimane un pochino più stoppacciosetta. No, però tu prendi la zucchina, la peschi. Ma come si vede? Io come si pesca? Allora, la zucchina la prenderei te, così per... Come la peschi la zucchina? A strascico? Con l'esca? Con la canna? Col bigattino, io so. Davide dice che alla Lidl italiana c'è sta la zucchina di mare. Sicuramente c'è sta la zucchina di mare, come no? Se vai a vedere bene c'è sta, la trovi. Come ci sono i cavallucci marini, come Stonehenge c'è sta pure, quindi... Sicuramente è stato pure le zucchine nei mari. Anche buone. Davide Gatti era insomma nel team. Quindi diciamoci la verità. Nessuno si è accorto di questa cosa. È bello. Poi la zucchina nei mari, tu come devi fare come gli orsi? Cioè devi mangiare la testa e la pelle. Butti tutto il resto. Gli orsi? Sì, col salmone. Ah, nel senso come fanno gli orsi col salmone? Esatto. Mi sono immedesimato nel mangiarsi un orso. Ho detto, aspetta, gli perché? Orsi. No, pure io avevo capito così. Gli orsi si prendono il salmone e staccano, mangiano la capoccia e la pelle e poi il resto lo buttano. Capiscono il cazzo. Sono orsi, scusa. Eppure non mi pare che se la passano male. No, non li vedo, perché ne mangiano a centinaia. Pensa quanto cibo sprecano. E il salmone è ricco di omega 3, però, ragazzi, cioè, che ne sapete. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che la rubrica sulla cucina la dobbiamo un attimo rivalutare, ecco, però probabilmente potremmo c'è quel famoso Gordon Bleff che abbiamo fatto solo il pilot. Però bellissimo. Però veramente, secondo me, ho riso veramente tanto. Riso, sorriso, che risate mi viene. Riso, soprattutto tanto riso bollito. Anche perché lì Gualdi ha dimostrato per la prima volta le sue doti radiofoniche, cioè proprio da speaker radiofonico. Lanciando anche brani, tipo, che ne so. Guarda, adesso bravissimo. Cioè, adesso perché non abbiamo brani di John Leffolds, sennò li lanceremo con noi. Ma volendo ce l'abbiamo. Andiamo a trovare dopo con calma. Comunque, in ogni caso, dovremmo prendere un esperto, o meglio ancora un'esperta di zucchine di mare, perché dovremmo chiedere a qualcuno. Guarda, non so se ce l'hai sotto mano. No, ma secondo me Giorgetta, se ci organizziamo, tra un po' si libera, secondo me, perché tanto Giorgetta chi? Fa tutto. Come Giorgetta chi? Giorgetta chi? Quanti dice che sono? Giorgia la cantante? No, Giorgia la cantante mo parte col tour, tra l'altro domenica prossima mi tocca pure andare con carico delle zucchine di mare, tra l'altro. Giorgia chi? Diciamolo. Meloni. Esperta delle zucchine di mare. Che è la sorella di Cesar Millan. Che è la sorella di quella che compare sui manifesti suoi, tra l'altro, perché cioè non è lei. Ma ovviamente. Secondo me è una cugina alla lontana. Sì, però comunque, anche. Se vogliamo, io il contributo sulle zucchine di mare di Giorgina ce l'ho. Vai. Se lo vogliamo passare, vai, lo passiamo. Aspetta, pronto? 1, 2, 3, via. Noi in Europa non ci andiamo a cambiare una direttiva, a limare il parametro. No, infatti. Noi buttiamo giù l'ecomostro, l'euromostro, l'abbiamo definito, che sta deturpando il paesaggio del vecchio continente, mostro, e costruiamo al suo posto una nuova europea, dilla parole due, Giorgia, a parole due, stati sovrani, cioè il potere torna nelle mani degli stati nazionali. Non so per cazzo alla fine, però tanto il momento topico adesso arriva. Ma l'importante è di sovranità, è quella cosa importante. Patriota, patriota. Qui hanno bisogno gli italiani, più prossimi ai bisogni degli italiani, e magari prossimo. L'Europa fa una cosa che non ha mai fatto, cioè si occupa delle grandi materie, delle grandi questioni. Della che è quello che fa poi, sì. Secondo lei no. I confini dall'immigrazione incontrollata, incontrollata, della sicurezza, del mercato unico. L'esatto contrario di quello che accade oggi. Cioè? Cioè? L'Europa, dove io devo decidere, anzi devo farmi dire da Macron, quanto devono essere il diametro delle zucchine che i miei pescatori possono pescare nei mari. Cioè, giù lo farei anche io. Però poi Macron in Libia fa una campagna per acquisire il controllo della Libia, cacciare l'ENI, cacciare gli italiani all'Unione Europea. Ma nessuno gli ha detto no, ma la cosa io però gliel'avevo no, detto, allora, io stavo là, no, allora, aspetta, mare, no? Allora, intanto c'è un problema che ha fatto un gesto che in radio non si può rivedere, però non so, ha mimato il calibro di queste zucchine di mare. Sì. Ma al di là di questo, ma poi secondo me Macron fa bene, voleva pure mimare il gesto di magnasse. Allora, il problema è che Macron, scusate, ma fa bene a dire a Meloni come devono essere le zucchine di mare. Secondo me fa proprio bene, ma secondo me, esatto, pure secondo cioè, anche me. Perché alla moglie dove se le deve mettere, esatto, le zucchine di mare. La moglie di Macron, che ricordiamoci, sì, insomma, potrebbe essere la nonna di Macron, le zucchine di mare ne sa tanto. Però il discorso è che Pizzi dice: ma qualcuno non l'ha fermata, non gliela. Il problema è che sti politici ormai hanno il viziaccio di fare le dirette Facebook, le dirette Twitter, le dirette quello che volete, col telefonino da casa, tipo dal divano di casa, in maniera incontrollata, e quando si rendono conto di aver detto una cazzata, ormai è troppo tardi, perché qui non c'è più l'esperto però, di ragazzi, comunicazione, non c'è più lo spin doctor, non ma c'è più... Non servono, non servono. Questi vanno per conto loro. C'è stata anche la video risposta di se stessa, no? Che ha fatto vedere alla fine, perché sì, mi sono sbagliata, mortacci mia, però adesso beh, andiamo e tira fuori la canna da pesca con la zucchina, ce l'avete vista? Vabbè, ha cercato delle fautoironie. Capito? Perché a quel punto, una volta che hai fatto la gaffa, il problema è che lei non l'ha capita. Vabbè, ho capito. Ma non si può parlare. Gli hanno messo una canna tira su sta cosa, regà, ma che è sovranismo. Gli hanno detto, lei l'ha fatto perché se no capito. Questo è sovranismo. Ah, ok, allora devo fare così, fai così. Vabbè, l'importante è che essere sovranisti. Anzi, ragazzi, io da questo momento sei sovranista. Però posso dire essere sovranisti, ma io convertirei OGM in ottimisti geneticamente sovrani. No, sovranisti genericamente mortificati. SGM. Guarda qui. Sovranisti genericamente mortificati. Vabbè, nel caso se malatempura se curante, servire, certo. Ci stava. No, dicevo, io poi però dico, al di là di tutto, la cosa che questa settimana politica mi ha fatto più specie è a seguito della brutta figura, proprio della figura di piccolo uomo che Di Maio ha fatto a Taranto quell'esponente locale gli diceva signor ministro mi guardi negli occhi e lui non niente. Poi è andato dalla Gruber dove ha cercato di tenere il punto, la Gruber gli ha detto guardi, gli ha raccontato delle cose, insomma gli dice guarda ci sono le immagini di tu che non, e lui niente, diceva non è vero, cioè non ha voluto ammettere. E non ha voluto ammettere quelle cose, tant'è che se vuoi metto anche quest'altro contributo, se è quello giusto. Aspetta però, mi devi avvisare prima. Beppe Grillo lo portava sul palco. Beppe Grillo lo portava sul palco. Le voglio semplicemente dire, adesso non facciamo vedere il filmato, credo che vogliamo andare avanti, ma insomma, quando questo professore le ha detto, guardi, voi avete fatto delle promesse farlocche, delle promesse da marinaio, e le ha detto mi guardi in faccia, lei ha abbassato gli occhi e diciamo che era visibile il suo imbarazzo, chiuso. Ma quando poi mai? Ma cosa ma sta no, dicendo? Ma venga a Taranto la prossima volta con me prima di dire queste cose. No, no, allora, ma perché? Perché? Che c'entra questa cosa? Cosa come sta? Non è che me le invento. Il governo attuale con me come ministro... Vabbè, qui prova a fare la supercazzola e rigirarla, certo. Insomma, a modo suo. Però ecco, cioè proprio siamo al governo della negazione di cose che non si possono negare. Io non lo so, fatto sta che se neghi la terra tonda e neghi lo sterminio degli ebrei, perché non puoi negare che hai fatto la figura del merda? È la cosa più semplice. Infatti, sì, sì. No, ma per loro poi è una cosa oramai abituale. Ma guarda, io per carità, i politici hanno sempre fatto questo perché rientra nel mestiere del politico. Quello che non capisco è perché facevano molte meno figure del merda. Forse diciamo, sì. Ma era un discorso di mancanza di mezzi per farle, non di volontà. Secondo me le avrebbero fatto. Che se avessero fatto una figura di merda 40 anni fa, probabilmente l'avrebbero pagata. Ma io quello merda. Che non qua, capisco, no, qui voglio estendere la domanda a tutto il nostro pubblico di ascoltatori, ma perché tanti elettori non si rendono, malgrado tutto questo, ancora non si rendono conto? Perché ancora li giustificano? Perché sono dei fanboy. per cui possono sì, giustificare esatto. Non sono oramai è questo non sono lettori, sono fanboy, sono tifosi di squadra. Quella è una squadra, è una casacca che tu qualsiasi cosa faccia, vince, perde, pareggia, dice le bestemmie, è fascista, poi diventa comunista, è uguale. L'importante è che la casacca rimanga. Che cosa no, è così, oramai da tempo che è così, quindi era... insomma, siamo spacciati, ce lo vogliamo dire un po', sempre perché siamo ancora ottimisti, poi potremmo diventare sovranisti, ma finché siamo ottimisti, diciamolo, siamo spacciati. Siamo sovranisti. Siamo sganavesa pure. Proprio di spacciare, visto che Salvini oggi ha preso questo schiaffo del fatto che Siri è stato defenestrato, no? Tra l'altro anche lì... C'è l'assistente vocale dell'iPhone, giusto? Esatto, è stato defenestrato, adesso, è stato disinstallato dal governo. Adesso utilizzato soltanto l'assistente di Google. Ora, quindi avremo Google al posto di Siri. Al di là del fatto che nessuno si è ancora domandato, no? Dice, il problema, secondo me, no? Non è che... uno non si dovrebbe domandare se sia stato giusto o meno far dimettere Siri da sottosegretario. Il problema è che uno che era un pregiudicato per reati finanziari, per bancarotta fraudolenta, non ci doveva stare, allora non ci doveva stare, punto. E il Movimento 5 Stelle ha fatto pippa e silenzio. E anzi, un altro dei geni, perché i geni Movimento 5 Stelle ha perso la virginità anale il primo giorno che è entrata in politica. Esatto, esatto. Poi dopo il ministro Bonafede, che peraltro è un avvocato, è andato a cercare di giustificare dicendo che quelle erano sue cose personali e che quindi in qualche modo non dovessero rientrare nell'arco di quelle che era, diciamo, poi il suo curriculum politico. Quindi però, se tu vai in galera, per dire, per cose personali... Però poi fa il politico. Cioè, se tu eri un pedofilo e condannato, è una cosa personale. Giusto. Vabbè, una linea di condotta, secondo me, equa. Sì, equa, esatto. Giusto. Però, insomma, dicevo, oggi, siccome a proposito di droga, siccome Salvini deve distrarre l'attenzione dalla sconfitta di oggi, oggi sono uscito con... Chiuderò tutti gli hemp store, i negozi di cannabis. Maledetti tossici, lì si spaccia. Ci sono più di 1000 di cose di queste che sono regolari. Li chiudiamo tutti. E siccome sono al governo assieme, ma non può passare un'ora che non se le danno a dire l'una contro l'altra. Giustamente la ministra Grillo ha detto una cosa vera: che diceva, volevo dire a Salvini che gli hemp store non vendono droghe. Cioè, gliel'ha detto almeno chiaro e tondo. Dopodiché, guarda, ci sono delle sostanze all'interno che sono psicotrope, ma sono una percentuale che non fanno cazzo. No, ma allora dobbiamo chiudere pure i bar. Allora, si chiamano THC meno proprio perché non c'è il THC, ma c'è soltanto il CBD. CBD quindi anche TTS, quindi è solo rilassante, ma per finta, nel senso che è una cosa che non fa niente, venduta a 30 euro al grammo. Ma possiamo dire serenamente, avendo provato. Se Savina avesse detto li chiudiamo perché è una truffa, allora avrei detto, beh, tutto sommato, c'ha anche ragione. No, perché lui poi tra il dire che ci sono più di 1000 esercizi che hanno che esercitano questa attività di spaccio illegale senza avere nessun controllo, mandiamo i carabinieri, li chiudiamo tutti, tra il dire che ci sono quelli abusivi, che è giusto anche che chiudono, e che dire che chiude tutti a prescindere, c'è sta un po' di differenza, insomma, cioè, fai un po' di pace con te stesso. Ma è come dire che io vendo un alcolico a un grado. Alcolico? Sì, no, ma è un grado. No, però aspetta Marco, lì è un po' diversa la situazione, perché purtroppo intorno a questi negozi ancora ci sono dei paradossi e delle pieghe della legge, perché sostanzialmente legge questi prodotti sono di libera vendita, ma non per il consumo. Loro te li vendono per collezione, quindi collezionali tutti, tu non li puoi, tu quei prodotti formalmente li devi comprare, non li puoi consumare. Poi quello che fai a casa tua, se vuoi fumare la Goti di Demon Soul, la puoi fare tranquillamente, te ci fai il cartone, esatto, via e accendi. Che cazzo le pare. Però bisogna dire che in realtà l'esempio diretto dell'App Store che abbiamo qui a Centro di Montrone è che da quanto ci stanno loro in quella zona non ci sta più lo spaccio. Sì, perché gli spacciatori che hanno rosicato hanno provato a reagire, bestie, esatto. Hanno provato pure a dargli fuoco, esatto. Sì, e si sono fatti pizzicare come gli scemi, perché non si sono resi conto che a 2 metri dall'App Store c'era la telecamera dei carabinieri. Se lo spacciatore a Monterotondo, cioè, non ci deve avere questo grande piglio, insomma. Vabbè, comunque, insomma, a proposito però, ragazzi, il nostro ministro ne pensa, 100 ne fa. Vai, dimmi, dopo te la sparo. Al lobby volevo dire che sto cercando sto cercando negli archivi di Runtime il famoso pilot che non trovo più, chiaramente. Non c'è mai stato. Volevo dire una cosa, ragazzi, voi come vi vedete col grembiule blu col fioccone? Rosa? No, è blu, dai, cercavo blu turbo. Ma io mi vedo male, insomma, c'è una certa. Eh no, perché Salvini ha detto che vuole ripristinare il grembiule a scuola. Giusto. Ma ci può stare, va bene. Cioè, ma a me non mi sembra così, cioè, voglio dire, problemi che, ben peggiori. Solo che fino al quinto, fino alla quinta superiore. Sì, sì, fino alla grembiule quinta. Grembiule fino alla quinta, sì, cavolo, alla quinta media. Sì, sono veramente discorsi che mi fanno rabbrividire, non, cioè, non per, no, diciamo, nel merito. Da un certo punto di vista c'è ragione, anche se, cioè, c'è ragione nel senso non per quello che dice lui, per quello che vorrebbe fare. Ma giustamente, come hanno detto tanti presidi, ma pensate per esempio ad aggiustare i tetti delle scuole che sono pericolosi, non, cioè, non è, se vuoi, è un po' diverso. Se vuoi pensare, se vuoi pensare alle scuole, perché, pensa alle cose importanti. Perché se tu devi fare il tetto, ci devi mettere i soldi, se devi imporre un grembiule, ci devi mettere un cazzo. Esatto. Quindi funziona così. No, ma da un certo punto di vista c'hanno pure ragione, perché c'è questa bruttissima moda. A parte di fare i vestiti che costano sempre di più, i ragazzini che magari rosicano perché non hanno le cose che hanno gli altri, perché esatto, succede molto spesso. Molte volte ci sono, mi sembra che ancora ci sono comunque dei punti dove comunque delle scuole dove ci sono i grembiuli, forse le no, nella cosa, beh, le scuole, allora, Montessori, le scuole, le scuole private, quelle delle sorcerie danno di solito una specie di tutina più, esatto, che un grembiule, che servono per, sì, comunque sì, per uniformitare, cioè per non creare omologare, infatti. Vabbè, cioè, poi le scuole britanniche hanno le divise, voglio dire, allora c'è, nel senso, se vai a vedere in tutto il mondo, so, ogni scuola ha un suo protocollo. Perché nella mente dei Salvini questo è una protezione della sacralità italiana, probabilmente. Certo. Cioè, gli diamo il grembiulino col cappuccio agli italiani e quelli non italiani senza cappuccio. No, diciamo la che, differenza è che poi, ovviamente, diciamo che proprio il grembiule col fioccone, cioè nel senso un po' 1800, insomma. Cioè, se proprio devi fare qualcosa. Beh, però... ma stiamo tornando verso il 1800. Sì, da mo', da un pezzo, da un pezzo, un pezzo. E... non penso. È morto? C'è una cartella che però è morto. Allora, a proposito di morto, c'è il coccodrillone della settimana. No, ragazzi, gli è morto. È morto settimana. Peter Mayhew. Non sono pronto. È morto Chewbacca. Sì, ok. Cioè... io mi domando se l'hanno seppellito col costume. Secondo me l'hanno piegato in due. Sì, perché non c'entrava, era tipo due metri, qualcosa. Vabbè, gli erano fatto apposta. Ma... sì, hanno seppellito in piedi, hanno fatto prima. Facevano prima, guarda. Con tutta la maschera di Chewbacca. Beh, almeno... vabbè, beh, dai, comunque... stavo a dire una cosa, vabbè, il buon Peter, insomma, cioè, che ha fatto... che ha dato vita a uno dei personaggi più amati di... così lui. Dicono poi, così dicono. Perché... cioè, che è morto? No, che era lui dentro. Beh, era lui, sì. Che ne sai? Cioè, non è che hanno preso... chiunque. In realtà... hanno preso Yuri Gagarin, hanno preso Yuri Gagarin, altro Dumeri. Nell'ultimo film... magari una delle scene più memorabili dove c'è Chewbacca, magari lui c'aveva la cagarella e ci hanno messo un altro dentro. Allora, Simone, io ti posso dire che negli ultimi Jedi lui stava già male, quindi non aveva più la forza per recitare, poi dentro al costume. Vabbè, e quindi lui è stato assunto soltanto come consulente della controfigura che hanno messo nel costume, un po' come il Gabibbo. Così, no? Per dargli un contento. Allora, in realtà, se non sbaglio, nel Ritorno dello Jedi, forse era l'Ritorno Jedi o l'Impero scolpisce ancora, comunque l'Impero scolpisce ancora, l'Impero scolpisce, Michelangelo scolpisce ancora, sì. Praticamente c'era una serie di scene pittore che furono girate con una controfigura perché lui c'era il cagotto effettivamente, stava male. Però praticamente, siccome che lui ha caratterizzato molto come movimenti Chewbacca, dopo che hanno girato le scene, le hanno riviste e detto non vanno bene. E quindi l'hanno quando si è ripreso, hanno rigirato le stesse scene con lo stesso attore. Quindi in ogni caso vedi che comunque era un bravo caratterizzatore. Quello ha fatto una vita, cioè non è che quello là... beh, quello è quello che ha fatto Darth Vader. Comunque ricordiamoci che se... beh, in realtà quello che ha fatto Darth Vader, tu dici, tu ti parli del ripieno o della voce? Del ripieno. Del ripieno. David Prose, sì, quello ha fatto fondamentalmente. No, volevo dire... poi noi l'abbiamo conosciuto. E quella sta bestemmiando. Ma tu non c'eri però. No, io non c'ero. Tu non c'eri. Peccato. Si è persa una bella scena. La scena forse era uno dei momenti più tristi, penso, della sua carriera. Motherfuckers! L'avevano messo dentro questo albergo dei vecchi. Spizio, confuso in mezzo ai vecchi. Un vecchio confuso in mezzo ai vecchi. Sa molto di sticco in questa cosa, lo posso dire. Certo. Non so perché, ma lo sospettavo. Esatto. No, dicevo invece che eventualmente se dovessimo trovare un sostituto con le fattezze necessarie per far Chewbacca, ci sarebbe Doug Jones. Che... tu dici che è Doug Jones? Come che è Doug Jones? Ah, sì, ok, perfetto. Beh, mi no, più basso però, Beh, oddio, Doug Jones intorno... sì, non sarà 2,20 metri, però quasi 2 metri mi sa che ce li è. Un po' di meno. Sì. Vediamo ma un tanto, po'. Ma tanto sti cazzi, cioè, perché Chewbacca è morto. Cioè, tanto farà morire pure al prossimo che muore, vaffanculo. Sono d'accordo. Comunque lo sapete, no, che Disney ha già ufficializzato tutta una serie di piani per i prossimi dieci anni? Sì. A me è venuto lo sconforto, ragazzi. Sapete che ci saranno nei prossimi tipo sei anni? Ah, sì, sì, hanno, sì, sì. Ogni Natale, sì, si alterneranno un Avatar e uno Star Wars. Un Avatar e uno Star Wars. Perché adesso che è tutto loro, Fox compresa. Meno male che non era uno Star Wars con uno Star Wars, come stavano a fare un paio di anni fa, hanno avuto a picco. Ma si sono resi conto. Ma invece la cosa inquietante è che hanno confermato ancora una volta che nel 2020 o 21, non ricordo bene, uscirà Indiana Jones e il Catetere Intasato. E io non direi che canti sta canzoncina, tanto sarà sostituita da un'altra con Indiana Jones. Allora, se Indiana Jones c'ha 80 anni, no? In che anno dovrebbe essere ambientato? Seguendo negli anni 80? Cioè... Sì, tipo, sì. Mamma mia. No, non così, no. 40 anni. Sì. Allora, stavo, diciamo, lui allora, c'era tipo una 35 d'anni durante il regime nazista. Nel film in cui nel teschio di Cristaccio stanno negli anni 50. Vabbè, ma quello meno. Non esiste quel film. E vabbè, però cronologicamente potrebbe arrivare agli anni 60, ma esagerà proprio. Ecco, non penso riesco ad andare oltre. Gli anni 40 e gli anni 50 ne sono passati 15 le anni, ma lei che va. Cioè, quella sì, è una cosa grave, capito? Cioè. Vabbè, ma non gli faranno fare l'ottantenne, lo faranno sembrare un pochino più, magari un pochino più giovane. 75, cioè, una svolta. Cioè, no, so, potrebbe essere, voglio dire. Comunque, potrebbero ringiovanirlo, potrebbero ringiovanirlo, altro, questa è una moda che si sta utilizzando molto. Beh, ormai, molto, se, sì, per chi ha visto... io ho visto... Se avete visto Capitan Marvel... Non Capitan Marvel, perché quello non ho visto, ho visto Endgame, dove c'è stata tanta gente ringiovanita. Beh, in Capitan Marvel, il personaggio di Samuel Jackson, Nick Fury... è coprotagonista, c'è, cioè, in tutto il film, in tutto copro, il film gioco mangiatore di protagonista, sì, mangiatore coprofago protagonista, certo, che è praticamente che presente in tutte le scene. Faccio il riassunto, Marco. No. Riassunto nel film di tre ore potrebbe durare due ore e mezza. Allora, il riassunto praticamente, che dura un po' di meno, è che a un certo punto arriva Capitan Marvel, dice: cosa ando cazzo sei stata, boh, stavo in giro, avete visto il film, no, attaccata varca, attaccata, intanto... poi sparisce, ritorna alla fine, pian cazzotto, è finita la Capitan Marvel, questa è più bella la cosa. No, alla fine, no, in realtà è Capitan Dragon Ball, si potrebbe riassumere quel film, però vabbè. No, io ho controllato intanto quanto è alto Doug Jones, ci ho messo un po', però 1,92 m, non è proprio troppo basso, insomma, troppo basso, però attenzione, 30 centimetri però attenzione, di dimensione artistica. Star Trek Discovery è la serie in streaming più popolare al mondo. Bella, questa cosa, però non so perché, sei sicuro? La serie in streaming. Sono sicuri? La serie in streaming. Ma pure Netflix ha detto che è andata... Conta pure quello pirata oppure proprio quello... No, beh, ci sono delle serie su Netflix di cui si è parlato molto di più. Una su tutte potrebbe essere, non lo so, Stranger Things, piuttosto che... Mamma mia, basta Stranger Things. Rotor caro, infatti. Basta. Anni 80 belli, ma negli anni 80. Tra l'altro, sapevate che i creatori, i Duff Brothers, dovevano andare a processo perché erano stati accusati di aver rubato l'idea di Stranger Things? Il giorno prima che iniziasse il processo sono state ritirate le accuse. Qualcuno è diventato ricco, però. Probabilmente a questo punto. Comunque, sì. A proposito di cose tristi, mi stavo ricordando di una cosa, ma niente, me la sono sfuggita. Cazzo. Te la dico io la cosa triste: hai fatto 45 anni. No, più triste. Però non riesco a ricordare. Ah, aspetta, sta tornando D.O.A. Ah, sì. No, invece hanno detto che la seconda stagione è figa. Io non sono riuscito a finire la prima, sinceramente. Non mi interessa, francamente, della seconda stagione, però c'è stato un suicidio. Non mi ricordo dove, c'è stato un suicidio e ragazza che ha visto, sì, che la madre dice ha visto due ieri, cioè si è suicidata per colpa di quella serie, voglio che venga ritirata. Ma andate a fare. Ti giuro, leggi, trovala. Buona. Io non so se vi ricordate. Vabbè, questo era come... quello là, il ragazzetto che faceva check-off su Star Trek, che la madre voleva fare causa alla Fiat perché si era schiantato con la 500 lì. Non si è schiantato, si è sfrenata la macchina nel vialetto di casa e l'ha acciaccato, è molto peggio. Ma magari è colpa sua che non ha messo il freno a mano. Cioè. Avranno fatto una perizia e se fosse vero... No, il problema è che sul manico del freno a mano non c'era scritto se non è inserito può uccidervi. Cosa che gli americani scrivono per sicurezza ovunque, certo. Quindi non c'era scritto che mi poteva avvertire che se tu non tiravi il freno a mano poteva uccidere qualcuno, e quindi è colpa della Fiat. Probabile, certo, ma tanto. No, peraltro, se vi ricordate, anche quando Paul Walker... Sto leggendo notizie. Se ricordate, ragazzi, Paul Walker è morto in un incidente di una, diciamo... Chi è Paul Walker? Paul Walker, quello di Fast and Furious, il biondo, ah, sì, okay, è morto in un incidente d'auto e la famiglia ha fatto causa alla Porsche perché secondo loro andava troppo veloce, i freni erano difettosi. Vabbè, comunque, tu dicevi di OA, suicidio, bla bla. Dicevo, vi ricordate negli anni 90, non so se voi questa rimembranza ce l'avete, quando capitava, perlomeno in Italia, no? O forse che Deterti, qualche giovane si... Aspetta, scusate, forse non è di OA, forse è The 13. 13. Ah, allora forse c'è più attinenza. Potrebbe essere 13, sì. Dicevo, vi ricordate negli anni 90 quando qualche adolescente per motivi di depressione, di infelicità generale, eccetera, capitava che insomma si suicidasse? Sui giornali leggevi sempre questi titoli, si è suicidato, Chiosa giocava di ruolo. Cioè, se eri un giocatore di ruolo eri avvezzo al suicidio. Cioè. Mi sembra un po' la stessa cosa qui, hai visto quella serie... Allora ti è ispirato a tipo il Blue Whale, no? Ti ha ispirato e tu... Che era una clamorosa bufala internettiana, però va bene. Sì. Ce n'era un'altra di bufala internettiana, però niente, mi è sfuggita. Questa non è una bufala, ma è divertente perché ridendo a sganascia sotto il microfono, facendo finta niente... Quentin Tarantino dichiara che il suo film su Star Trek è una possibilità concreta. Si sta ammazzando dalle risate. Nel senso, ancora stanno a negoziare se farlo o no, quindi c'è ancora la possibilità concreta che non lo faccia. Perché ancora Paramount deve decidere la sua politica sui prossimi film di Star Trek. Intanto la Nichols ci saluta, ha detto che si ritira e quindi fino al 2020 farà eventi per salutare tutti. Se non fa tempo a morire. Ma non era morta, infatti. No, quella non muore. Ma la cosa più drammatica è qui, sta batte con Bill. E qui chiudiamo le notizie su Star Trek, è che CBS fa sul serio, lancia il nuovo gruppo dedicato all'espansione globale del franchise di Star Trek. Ragazzi, io non lo so che significa, però mi fa veramente paura. Espanderemo Star Trek in Europa, dico. Volevo fare una comunicazione di servizio al regista, è finito il background, lo so, ma io ero preso da... Nel frattempo Shaker Booty prima diceva giustamente che potevano scrivere e non sedersi sul cambio, ma in realtà c'è chi piace, quindi perché scriverlo? Infatti. Comunque è bello perché insomma alla fine, no, se tu mi fai tutti questi film concatenati, io oramai sono uno appiccicato là, perché cioè una cosa è che tu mi fai una serie di film che vogliono avere una continuity, io parlo del Marvel Universe, Cinematic Universe, allora tu mi fai una serie di film che ogni sei mesi ne esce uno e vabbè, roba genere. Ma se tu mi fai una concatenazione tale che ogni mese e mezzo esce un cazzo di film che è concatenato con l'altri, e sento ancora la gente a dire non mi spoilerà il film, ma vaffanculo. Vabbè, però dai Simo, in realtà considera che l'MCU va avanti, siamo arrivati a un livello ridicolo. No, però l'MCU, quello che voglio dire, va avanti da 10 anni e sono circa una trentina di film usciti, quindi la media è 3 all'anno, dai, sono tanti comunque. Però non uno in mezzo. Ma guarda che. Ma che cazzo dici? Guarda che nell'ultimo anno e mezzo, secondo me, c'è stata un'accelerata fuori da testa. Sono usciti 4 film. Ne sono usciti un anno e mezzo, 4. È uscito a Infinity War, Black Panther, Doctor Strange, Wasp, Ant-Man e Wasp. E Capitan Marvel, e poi abbiamo chiuso. Vabbè, ne avete detti già 6. Cioè... Vabbè, in 2 anni però. Ho capito. 3 l'anno. Circa 3 l'anno. Vabbè, sì. Anche perché. Se no si cannibalizzerebbero da soli gli slot al cinema. In realtà il problema è che adesso, ragazzi, è tutto, è veramente tutto della Disney, quindi possono fare quello che vogliono, perché tanto qualunque cosa vai a vedere è roba loro. Non ti piace, ne vai a vedere un'altra, è roba loro. Quindi cioè, penso che non andrò più al cinema, non lo so. Perché? Sti cazzi. Vado quando è chiuso. Vai quando è chiuso, vai a comprare i popcorn. Beh, però tanto c'è questa notizia che c'è una sala IMAX a Porte di Roma. Sì. E io l'ho scoperto subito dopo aver visto Avengers Endgame, ho rosicato, perché dico, cavolo, era forse... L'ho visto a fianco, però non si sentivano le colonne sonore dei film a fianco. C'erano ancora, e sai perché non le sentivano? Probabilmente perché le altre sale erano spente. No, era acceso, il problema è che c'era Staglio Olio e c'era un'altra cosa, per cui a fianco... Bello Staglio Olio. Sì, perché c'era Staglio Olio, comunque dei film tranquilli, quindi erano loro che si sentivano la colonna sonora nostra. Ma bomba, per curiosità, l'ultima volta sono stato a fianco non c'era il sedile del mio posto, adesso come stanno messe le... Non so, il tuo posto non c'era, probabilmente il mio sì, però. Cioè, ah, andava bene, no, beh, sinceramente è veramente detto troppo decadente il cinema. Va bene che era martedì, che era Ajax ben... 2 Tottenham 0, scusate. Era ben più di una settimana che era uscito il film, però eravamo nel cinema, nella come si chiama, nel teatro, nella ragazzi, si chiama? Nella sala. Esatto. Non lo dire proprio la sala, eravamo tipo quella là volevi dire tu. 10 persone eravamo. Ma ti credo, perché nel primo fine settimana hanno visto tutti, questo film ha incassato 1 miliardo 400 milioni di dollari in una settimana. Capito? Tra l'altro sta... Pizzi. Ed è anche colpa tua. Sì. E anche la seconda settimana io ci sono andato, male, fai molto male. E guarda quasi... che poi la Disney se lo segna sta cosa. Esatto, ormai non li puoi più. Cioè, arriva Topolino e ti ammazza nel sonno. E cosa praticamente fatta che supererà anche Avatar, Titanic, e sarà il maggior incasso di sempre. L'ha già superato. Che bello. Vabbè, non parleremo del film, magari un'altra volta, però diciamo alla fine la bambina muore. La bambina muore, però onestamente a me non è piaciuto. Strano. Vabbè, a me piace sempre tutto. Comunque dice. Basta vedere un attimo tutte le notizie che parlano di accordi, dei scioglimenti dei contratti, dei non rinnovi o roba genere per capire quello che succede nel film. Insomma, ma sì, che... anche se poi c'è da dire che non è detto, per esempio, non lo so, secondo me alcuni attori che alla fine rinnoveranno perché ormai sono talmente legati a quei personaggi che comunque non fanno altro altrove, quindi diciamo che guarda hanno, che c'è uno hanno che messo... per questa storia a 80 anni ancora va in giro a beve il bar. Hanno messo una hanno messo i paradossi temporali qua, quindi potrebbe scappare fuori di tutto. Sì, vabbè, ma è diventato Dottor Who praticamente. Vabbè, quello di Marvel è un multiverso, non è che ce lo stiamo inventando noi oggi. È multisala pure. È anche esatto. Multisala. Tu entri in uno, pensi di vedere un film e ce ne sta. Ma io voglio fare una domanda, ma veramente oggi hai 50 anni, a voi vi piace sta roba? Certo, divertentissimo. Sempre meno. Mi piace sempre di più invece. Non lo so. Sempre di più perché devi dire il contrario. No. Assolutamente. No, me ne vedo, mi ci diverto. A vederlo è un discorso, però, cioè, vuol dire... Guarda, ne parlavo con degli amici oggi pomeriggio, no? E dicevo, in realtà, oggi come oggi, io preferisco andarmi a vedere una cafonata tipo Fast and Furious. Non ho capito. Dico, oggi come oggi, preferisco andarmi a vedere una cafonata tipo Fast and Furious, che tu sai già cosa andrei a vedere e non ci resti male, piuttosto che andare a vedere quei miti di quando eri un po' più giovine, tipo uno Star Wars... e vederlo massacrare. Lo so, per me io continuo a dire che per me veder morire Han Solo comunque io è una cosa che non glielo perdonerò mai a Walt Disney. Ma non perdonerò neanche un Indiana Jones che fa il coglione e manco muore. Ne vogliamo parlare? Perché Teschio di Cristaccio ci insegna che non so cos'è peggio, se morire da coglione o sopravvivere da coglione. Ma tu perché non segui Discovery Channel? Perché sennò la cosa dei dischi di cristallo, cioè come ti spiegano in Enigmi Alieni, è la testimonianza palese che noi veniamo da antichi esploratori. Cioè, dello spazio. Che erano bravi a fare due cose. I dischi di cristallo e andarsene. Quindi, cioè, meglio senza lasciare così, tante prove perché senza, quello bisogna dire. Ma tanto fa soltanto i dischi, solo quelli sono rimasti, il resto è stato tutto distrutto dal tempo. Lo so, però i ricercatori scienziati, importanti ricercatori scienziati dimostrano, no, che il teschio di cristallo studiosi è importante, insomma, perché giustamente dice Lucio Plantone, dice troveranno nuovi modi per non mettere a norma la morte nera. Sì, non riusciranno a finirla, non c'è verso, ma ti pare che... Ma perché ci sono pure gli Umarell che sono è spazio, come il ponte di Messina, ma poi cioè, lo famo, non lo famo, intanto sganciamo un miliardo d'euro, cioè così. Beh, non fosse quanti morto, quanti soldi è costato e due morti nero. Non fosse morto come un coglione, l'Umarell lo poteva fare un solo a una certa. Ma lui era un po' Umarell in quel film. Dopo, a questo punto lo potrebbe fare Luke. L'Umarell. Sì. Il modello in cui è morto Paul Walker, dice, era una carriera GT che aveva ammazzato parecchie persone perché negli incidenti prendeva fuoco. Grazie di questa informazione, anche un po' triste. Perché sì, non so di che cosa sta parlando. Certo, il problema prima è che parlavamo degli incidenti, Paul Walker, l'attore di Fast and Furious, che è morto durante una gara di beneficenza. Lui era copilota di questa macchina, di questa Porsche Carrera, che in un incidente praticamente appunto ha preso fuoco e lui c'è rimasto dentro. Il problema è sapere, che questo non si capisce bene neanche dal commento, se le macchine prendevano fuoco dopo o prima dell'incidente. Perché fa la differenza, cioè, fa molta differenza. Però vabbè, questo sono particolari. Esatto. L'importante è che non era durante, perché insomma durante anche durante è uguale, secondo me dura di meno il durante, ma è uguale. Vabbè, niente, comunque anche Endgame se lo siamo lasciato alle spalle. Sì, ma... io ho promesso che questo sarebbe stato il mio ultimo film dell'MCU, sì, al cinema, e probabilmente mantenuta la mia promessa. Tu grazie a Spider-Man ti sei spoilerato pure alla fine di Endgame, no? Eh sì, quello che stavo a dire io. Attenzione, non c'eri quando l'ha detto. Attenzione, ragazzi, avviso ai naviganti. gira il nuovo trailer di Spider-Man Far From Home. Se vedete la versione originale, verrete avvisati con un avviso proprio del protagonista che lo dice bene. Non lo guardate. Se non avete ancora visto Endgame, non guardate questo trailer. Perché c'è Tony Stark che è morto, capito? Oh, cazzo! No, ma dai! Boom! Così, la traditora. Perché, ragazzi, ricordatevi, se ti chiami Stark, prima o poi devi morire. Che cazzo la faccia? Ma che spoiler è? Cioè, si chiama Stark, quello da 10 anni che si gratti i coglioni. Vabbè, ciao papà, come ti chiami Stark? Anche tu morirai. Se morirò, morirò come babbo. Qua! Come babbo! No, qua. Ah, come babbo, Come babbo, vabbè, quindi insomma, Gualdi ha sganciato la bomba, a questo punto possiamo andare a bere una birra. Assolutamente sì. Eh sì, io... Vuoi sapere gli altri personaggi che muoiono, ma tanto tornano, cioè, ma dove vanno? Quando vanno? O anche che tornano con altri personaggi. Allora, cioè, io senza andare sul particolare, ma sono state annunciate delle serie TV con gli attori originali del film, che però... non dovrebbero esserci più. Allora, a parte il fatto che potrebbero essere dei prequel. No. Perché scusa, temporalmente perché? Non ci stiamo. Ma scusa, aspetta, perché dici... vabbè, sì, ci sono. C'è la serie su... la possiamo dire, su Scarlet Witch. Scarlet Vision si chiama. Perché c'è anche Visione. Esatto. Quindi che prequel... Ah, cara, ma Wanda... c'è da andare a comprare lo zucchero. Che faccio? Mi teletrasporto? No, tesoro, usa la porta. Faccio una volata. Va bene. L'altra cioè, serie è così, sarà tutta l'altra così, casa Vianello. L'altra serie è su Loki. E l'altra, che Loki e però c'è sta Kai. Un perché, attenzione che c'è il perché. E l'altra invece su Hawkeye, poi ce ne sarà un film su Vedova Nera tra l'altro. Che hanno annunciato, però allora, tempo fa l'avevano messo in stand-by. Aspetta, ma perché hai detto Vedova Nera? Tu mica l'hai detto che è morta. No, io non l'ho detto che è morta. Infatti, vabbè, però faranno anche in teoria lo spin-off su Vedova Nera. Sì. Esatto, questo dopo però. Dopo. Esatto. Però che quello su Vedova Nera potrebbe a tutti gli effetti essere un prequel, l'avevano immaginato già prima, insomma. Tanto ormai per ingiovanire Scarlett Johansson c'è una tecnologia, quindi che tra l'altro si è invecchiata un po', è un po' malino negli ultimi film, un po' sbattutella, ma non in senso, come dire, ludico, proprio sbattuta nel senso... La trucca in una maniera diversa. Ma guarda che lei senza trucco non è una figa, non è figa, è bella ma non è figa come... Ma secondo me quasi nessuna attrice senza trucco è figa come sembra, cioè, ci sono delle foto di lei che praticamente fa le cose senza trucco, è la tua vicina di casa, cioè praticamente. Ma guarda, io lo penso quasi di tutte. Una bella insomma. Ragazza, però per carità, però diciamo che nei film come viene conciata è 10.000 volte più figa, vabbè, però pazienza. Giustamente dice Pepper Izzard che in Endgame muore Batman, lo sanno pure a Paperopoli, sì è vero, ma Batman muore di bestemmie però. Esatto. Poi tante bestemmie. Porca miseria. Vabbè. Io direi che stiamo a bere una birra. Ci siamo fatti l'oretta di circostanza. La prossima settimana torneremo negli orari più canonici. Più consueti. La prossima settimana, allora, innanzitutto, noi dovremmo decidere di che cosa parlare nella sezione dedicata a quell'argomento lì. Al posto di quell'argomento lì. Dobbiamo trovare un altro argomento lì. Cosa facevamo l'anno scorso? Niente. Non lo so, trovare spare? No, perché non c'era. Cazzo, che c'è? Pizzi, pure tu suggeriteci pure voi qualche facciamo cosa. Facciamo una bella rubrica sul mondo del porno. Secondo me dovremmo veramente fare una sorta di riunione e cercare di fare un... insomma, la famosa, il comitato di redazione. Esatto, una linea editoriale. Il comitato, quello di Rai 2. Il comitato sa che fa. Vabbè, io direi che andiamo a bere perché è tardi. Ma soprattutto s'annamo a divertir nanni, ci vediamo mercoledì prossimo. Salutami a Soreda e tanti auguri. Però scusate, non possiamo chiudere senza la domanda a Gusella. Ah, sì. Gusella, è meglio un culo caldo in panza o una panza calda in culo?